in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani che oggi, come a volte capita, hanno aperture abbastanza diverse uno dall'altro. Cominciamo dal Sole 24 Ore che si concentra sulle novità fiscali. Professionisti e autonomi, ecco come cambia il fisco. C'è questo piano in due fasi, subito alcune semplificazioni, del resto alcune sono già in atto come il 730 precompilato e altre ancora, poi le norme sulla flat tax, gli studi di settore e la deducibilità dell'IMU. L'esonero IRAP per le aziende più piccole può valere fino a 1,1 miliardi. Tutti gli approfondimenti alle pagine 2 e 3 del Sole 24 Ore. Sempre dalla prima pagina del Sole, come ogni domenica, un approfondimento su un titolo quotato, la lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini. Questa settimana il nostro collega di finanza si concentra su Amplifon, che spinge il business negli USA e punta alla crescita della produttività. Richiamato in prima pagina anche un articolo che poi trovate a pagina 4 su un piano del ministro delle infrastrutture Delrio da 3-4 miliardi per rivedere il trasporto locale. Sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo anche l'editoriale di Luca Ricolfi, come spesso accade alla domenica, che prende un po' spunto da tutte le vicende politiche degli ultimi giorni e si chiede: dopo l'autunno una kleine coalition, che in tedesco significa piccola coalizione, mentre quella di adesso sarebbe tutto sommato una grosse coalizione, una grande coalizione, perché se ci pensate in effetti il PD di Renzi governa con il centrodestra, quindi sicuramente una coalizione grande che coinvolge partiti di orientamento politico anche molto diverso, come del resto vedremo anche da alcuni titoli sulla questione delle adozioni per le coppie omosessuali. Il Corriere della Sera sceglie di titolare prendendo spunto da un'intervista di Federico Fubini a Jean-Claude Trichet, ex presidente della Banca Centrale Europea, che è intitolata "Patto tra Italia e Unione Europea, sia la flessibilità ma tagli al deficit". E poi sugli attacchi che spesso arrivano alla Banca Centrale Europea, appunto, e a Mario Draghi, il suo governatore, Trichet la difende, dice la banca ha evitato il peggio. La fotonotizia però vede un Donald Trump sorridentissimo, con i suoi denti fintissimi e i suoi capelli, come sappiamo, ancora fintissimi. La notizia, quella l'avrete sentita sicuramente anche ieri nei GR, ci sono molte donne, una cinquantina addirittura, che hanno raccontato di varie molestie e abusi che Donald Trump avrebbe compiuto nel corso della sua carriera di manager. Soprattutto sapete che è stato anche presidente del concorso di Miss Universo. Allora, la foto è quella appunto di Trump tra alcune candidate a Miss Universo. La rivelazione è della New York Times, che quindi viene ripresa poi da giornali italiani, e in questo caso l'articolo, il reportage di Massimo Gaggia, le pagine 10 e 11, il commento di Beppe Severgnini, il racconto di 50 donne fermerà Trump. Vi dicevo l'intervista all'ex presidente della BCE Jean-Claude Trichet la trovate a pagina 3 del Corriere. La Repubblica invece titola sulle nuove norme della legge di stabilità per favorire chi vuole avere dei figli. Bonus bebè, più soldi per le famiglie, primo figlio 160 euro. È un piano della ministra della salute Lorenzin, che ha anche detto: se non interveniamo con misure di questo genere siamo a un rischio crack demografico, bisogna agire ora oppure sarà troppo tardi. La fotonotizia però vede insieme Micaela Ramazzotti e Valeria Bruni Tedeschi, che sono le protagoniste del film di Paolo Virzì, che ieri è stato presentato a Cannes ed è stato alla proiezione per il pubblico, è stato molto applaudito, e loro sono giustamente radiose fotografate durante questa proiezione. Il Messaggero, abbiamo appena detto che Jean-Claude Trichet sulla Repubblica in questa intervista dice ci sarà un patto. Ecco, il Messaggero invece titola "Debito, Berlino contro l'Italia". C'è infatti una lettera del capogruppo del Partito Europeo Weber, molto vicino alla Merkel, che ha scritto a Juncker, presidente della Commissione Europea, dicendo: bisogna applicare la stabilità con rigore e nel mirino c'è proprio questa flessibilità ipotizzata data per Palazzo Chigi, ma il Ministero del Tesoro ha subito risposto: ma no, non ci saranno sorprese, siamo fiduciosi. La fotonotizia in questo caso invece è dedicata alla vittoria di ieri della Roma, che ha battuto il Milan 3-1, e la foto in realtà, proprio la foto ritrae Francesco Totti, al quale è stata dedicata un'ovazione. A proposito di, dicevamo, posizioni diverse all'interno del governo, ecco l'Avvenire che titola su quello che è stato un po' un botta e risposta ieri tra l'autrice del disegno di legge Cirinnà, quello sulle unioni civili, che è appena diventato legge, anche se mancano i decreti attuativi, quindi in realtà oggi come oggi nessuno può ancora. Nessun sindaco può celebrare i matrimoni e nessuna coppia di omosessuali può sposarsi, però la legge, almeno sulla carta, c'è. Quindi l'Avvenire unisce due argomenti: quello sulla famiglia, con questo titolo Basta rinvii, e appunto segnala queste misure che sono state annunciate nella manovra finanziaria, e poi però anche un accenno a questo botta risposta, vi dicevo, che c'è stato ieri tra la senatrice Cirinnà e il viceministro Costa, che è della Cirinnà e del PD, viceministro Costa è dell'NCD, perché sapete che è vero che nella legge non c'è più la cosiddetta stepchild adoption, cioè l'adozione del figlio del coniuge, però ci sono, quando ci sono queste adozioni di fatto, perché poi ci sono moltissime situazioni di fatto in cui una coppia omosessuale ha adottato un bambino, il giudice deve decidere per esempio sull'affidamento, e in questo caso, come già si faceva prima dell'adozione della legge Cirinnà, appunto è il giudice a decidere. La fotonotizia in questo caso prende spunto dal fatto di cronaca terribile dell'arresto del ginecologo Antinori, che è stato arrestato perché accusato di aver estorto con l'inganno degli ovuli a una paziente che era andata nella sua clinica per farsi curare un'altra per altri motivi. Vicenda pochissimo chiara, perché in realtà la prima difesa di Antinori e dei suoi più stretti collaboratori è che questa ragazza semplicemente si sta vendicando perché non è stata assunta. In ogni caso, il fatto di cronaca è lo spunto per parlare di quello che l'Avvenire definisce il mercato nero della vita che nasce, quindi come il mercato degli embrioni, perché sapete che soprattutto per la fecondazione assistita ci vogliono appunto degli embrioni che possono essere, devono essere donati volontariamente. Se questo non avviene, o se magari vengono pagati poco a donne che pur di guadagnare donano anche i loro embrioni, e non è una pratica così semplice né così innocua per la salute di una donna. E Assuntina Morresi appunto ha fatto un'inchiesta su questo che viene definito un mercato nero. La Stampa ha un titolo ancora diverso, ed è un'inchiesta che i giornalisti della Stampa hanno fatto su quello che sta succedendo in borsa. La grande fuga dalle borse, ritirati 90 miliardi di dollari. Il premio, con un'intervista a un premio Nobel per l'economia, Eugene Fama, è l'impatto del populismo e dell'ingerenza degli stati. Pesano i timori di nuove crisi e l'instabilità politica, mai così male dal 2011. Il commento di Alberto Mingardi: se crediamo di essere più furbi dei mercati. Il Libero ha non una fotonotizia, ma un disegno, come sempre caricaturale, di quelli che a volte Libero pubblica in prima copertina, per corredare l'articolo di Giampaolo Pansa, che anche in questo caso, come nel caso del Corriere, è dedicato a queste rivelazioni sui trascorsi poco limpidi di Donald Trump nel confronto delle soprattutto giovani donne con le quali ha avuto a che fare. Il titolo però vero e proprio è l'INPS Tartassi Pensionati regala viaggi agli statali. Maurizio Belpietro spiega, questa inchiesta che ha fatto Libero, che effettivamente non ci sono le coperture per restituire ai pensionati l'adeguamento dell'assegno previdenziale all'inflazione, che sapete era stato prima annullato e poi però ridato da una sentenza della Corte Costituzionale. E però si viene a scoprire che ci sono quasi 22.400 figli di lavoratori pubblici che nelle prossime vacanze potranno andare all'estero a fare dei viaggi studio e avranno dei rimborsi che arrivano a 4.000 euro, e da qui appunto il titolo di Libero. Il giornale Fisco Dracula, artigiani, rapina da 18 miliardi, le tasse in più versate da autonomi e imprese, colpa degli studi di settore, che come abbiamo visto sul Sole 24 Ore sono una delle grandi riforme che dovrebbero essere imminenti per il fisco. Con le imposte oltre il 60%, soltanto un negozio su due fa gli scontrini. L'editoriale del direttore Alessandro Sallusti è però sulla politica, la politica a rischio setta, dove ci sono dei giudizi molto critici, in particolare sui 5 Stelle, quella che ormai da più parti viene definita la loro doppia morale, nel senso che quando qualcuno di un altro partito viene indagato o riceve un avviso di garanzia, che vuol dire appunto che sono state aperte delle indagini nei suoi confronti, si urla subito colpevole, colpevole, quando succede agli esponenti del proprio partito e non a tutti, tra l'altro, invece si sospende il giudizio. Ci lasciamo però un attimo per una pausa, dove sentiremo anche alcuni aggiornamenti su questo pazzo meteo. Logisticamente, Modul Block. Scarica l'app Modul Block e vivi l'esperienza in realtà aumentata. Vi presenta Tempo in diretta. Previsioni a cura di Trebi Meteo. Una buona domenica da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Gli ascoltatori di Radio 24 ci attende una giornata ancora molto variabile in diverse zone dell'Italia, anche se oggi al nord torneranno schiarite anche ampie, eppure sulle isole maggiori nel complesso la giornata sarà più che discreta. Vi devo però segnalare tra il tardo pomeriggio e la sera qualche temporale tra la Lombardia e il Triveneto. Ma oggi saranno le regioni centro-meridionali peninsulari quelle a vedere la maggiore instabilità, e così tra la tarda mattinata e il pomeriggio in diverse zone del centro-sud torneranno temporali acquazzoni, principalmente nelle zone interne, ma qualche piovasco raggiungerà comunque anche la fascia costiera. E di conseguenza anche temperature relativamente contenute, non che si stia male, nel pomeriggio toccheremo infatti 23-24 gradi. Vi segnalo per finire il ritorno in settimana di una zona di alta pressione, finalmente il tempo migliore in maniera più decisa. Con questo è tutto, ma per dettagli sulla vostra località potete scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, abbiamo visto che oggi non ce n'è una uguale all'altra per quanto riguarda i titoli, e lo conferma il Manifesto, che ha una grande foto di una sit-in, potremmo dire, alla Place de la République a Parigi. Sapete che a Parigi i giornali non ne stanno parlando tanto, però a Parigi e in tutta la Francia ci sono queste riunioni, questi sit-in convocati soprattutto su internet, perché partecipano soprattutto ragazzi e ragazze molto giovani. Il titolo del Manifesto è Omaggio francese, anziché naturalmente Maggio francese, che è il riferimento ai movimenti degli anni 60 e 70. In questo caso si parla sì del fatto che tutto questo è stato innescato dalla protesta contro il cosiddetto Jobs Act alla francese, cioè la riforma del lavoro, che è appena passata tra l'altro con alcune modifiche, ma è comunque diventata legge in Francia. Ma in realtà, secondo il Manifesto, l'obiettivo è la creazione di un laboratorio per una nuova internazionale dei movimenti. Ci sono stati anche proteste e incontri di questo genere a Roma, Milano e Napoli. La Gazzetta dello Sport non poteva che titolare, insomma, sulla giornata di ieri di calcio. Il titolo è Neuro Milano, Euro Sassuolo, riferimento naturalmente alla sconfitta di entrambe le squadre di Milano, e poi al fatto che invece, avendo vinto il Sassuolo ieri, adesso potrebbe sperare appunto a un futuro europeo in Europa League, ma spiega la Gazzetta, gli emiliani devono sperare che i rossoneri non vincano la Coppa Italia. Torniamo alle pagine interne, torniamo sul Sole 24 Ore, a pagina 5 Andrea Franceschi torna sull'argomento degli utili. Questa è una stagione in cui, questo è un mese in cui vengono staccate la maggior parte delle cedole delle società quotate, quindi il titolo: utili big europei vanno oltre le stime, ma se crescono gli utili scendono i ricavi, prezzo del petrolio, tassi zero ed effetto cambi pesano sui fatturati, 8 miliardi in meno delle attese. Dalla prima pagina di Imprese e Territori un reportage di Cati Mandurino, la nostra corrispondente dal Veneto, che spiega come sia in crisi un po' il settore delle grandi navi, delle crociere. Perché? Perché, come spesso accade in Italia, vengono annunciati grandi riforme, poi non si prendono le decisioni e soprattutto le aziende straniere a quel punto scelgono di investire in paesi dove c'è la certezza delle regole o comunque si sa esattamente a che cosa si va incontro investendo. Il titolo: Nessun piano e Venezia perde quota. Lo stallo costato 40 milioni di ricavi e 260.000 passeggeri. La sfida naturalmente viene dai paesi più vicini, dove le navi che arrivano nell'Adriatico possono andare, cioè la sfida di Croazia e Slovenia. Poi un approfondimento da Torino invece sulla Ferrero, la grande azienda italiana, una delle poche vere multinazionali italiane, che ha compiuto 70 anni, e l'amministratore delegato Giovanni Ferrero, che è uno dei figli del fondatore, ha scritto una lettera ai 40.000 dipendenti dicendo: continueremo a crescere nel mondo. E poi c'è uno schema che fa vedere come negli ultimi 10 anni il fatturato del gruppo Ferrero sia quasi raddoppiato, perché è passato da 5,1 miliardi del 2005 a 9,5 del 2015. Un approfondimento anche sulla questione RCS e soprattutto Corriere della Sera, per il quale sapete Urbano Cairo, già proprietario del gruppo che possiede per esempio la 7, ma anche molti altri magazine. Urbano Cairo ha fatto una cosiddetta offerta pubblica di scambio per acquistare RCS. I soci sono un po' storcono il naso, vorrebbero un'offerta più alta, e quindi il titolo dell'articolo di Laura Galvagni, che spiega un po' a che punto si è: RCS ora Bonomi studia il dossier, perché ci sarebbero appunto, potrebbe esserci un altro pretendente a RCS, che poi vuol dire soprattutto il boccone più ghiotto è il Corriere della Sera. Avrete sicuramente sentito parlare della questione delle liste non ammesse alle elezioni comunali. Il caso più eclatante è quello della lista di Fassina a Roma. Il TAR ha confermato che le irregolarità formali impediscono di accettare la lista. Qui c'è un'intervista di Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, pagina 7. Ve la segnalo perché comunque è effettivamente una questione di cui si continuerà a parlare, anche perché una risposta definitiva si avrà domani. Però vi assicuro che io non ho capito quasi niente di questa intervista. Cioè, vi dovessi citare una domanda e risposta che in qualche modo spiega la questione o spiega che cosa Fassina, che è stato eletto nel PD nel 2013, ma nel 2015 se n'è andato in aperto contrasto con Renzi, ha lasciato proprio il Partito Democratico, dovrebbe spiegare che cosa succederà, ma in realtà non lo fa. È un'intervista di mezza pagina e alla fine dell'intervista nessuno ha capito che cosa vuol fare. Le liste, una sofferenza, una parte di noi guardava altrove. Su Giachetti lo definisce un pastaran del governo, non pensi che voteremo per lui. Quindi si profila un altro caso Liguria, dove cioè le divisioni all'interno della grande famiglia della sinistra, da una parte c'è Giachetti, candidato del PD, e poi c'era Fassina, rischiano appunto di far perdere inesorabilmente a favore di altri schieramenti che possono unirsi. Che poi nel centrodestra ci siano altrettante divisioni è un altro discorso. Comunque in questo caso è naturalmente il caso più eclatante, appunto quello di Roma, di Fassina e Giachetti. Un dossier su Repubblica sulle tasse locali, a proposito delle città dove si vota. Roberto Petrini racconta come le tasse locali siano rincarate fino al 300% negli ultimi 5 anni nelle maggiori città dove si voterà, e proprio si fanno vedere questi schemi inquietanti di Napoli, Milano, Roma, Torino, Bologna e Cagliari, dove sono appunto città dove si voterà il 5 di giugno. Pensate, per esempio, il record ce l'ha Milano con un balzo delle tasse del 299,4%, cioè si pagavano tasse locali per 499 euro nel 2010, adesso siamo a 1993, è un record legato soprattutto alla tassa sui rifiuti. Poi parlavamo della vicenda Antinori, questo ginecologo che poi anche uno si chiede come a 71 anni si sentisse ancora in coscienza di operare, perché un medico sicuramente più avanti con gli anni più accumula esperienza, però forse arriva un punto in cui certi tipi di, per esempio, di interventi non è più il momento di farli. Lui continuava a operare nella sua clinica e oltre al fatto che ha portato al suo arresto, che è quello della denuncia di questa ragazza che asserisce che le abbiano estorto gli ovuli contro la sua volontà, si è scoperto dopo questo arresto che in realtà ci sono altre indagini sulla clinica, perché ci sono altre donatrici che contestano il modo in cui sono state o pagate o comunque trattate durante questa donazione, che lo ricordiamo è una pratica legale, cioè uno può decidere di donare, una donna può decidere di donare i suoi ovuli e lo può anche fare a pagamento, però appunto ci sono molte zone d'ombra nel modo in cui la clinica diretta da Antinori operava. E quindi qui un'intervista a una ragazza che resta anonima, la trovate a pagina 17 di Tiziana De Giorgio di Repubblica, parla una ragazza che 4 mesi fa ha denunciato ai carabinieri la clinica per la fecondazione dopo aver ricevuto 1.000 euro in nero per una donazione. Se avessi portato un'amica avrei avuto 500 euro extra. Vi dicevo della legge sull'unione civile e della necessità di avere prima i decreti attuativi, prima che veramente si possa procedere a queste, per chi lo vorrà, a far celebrare queste unioni civili. Spiega il Messaggero a pagina 7, decreti attuativi solo dopo l'estate. Per celebrare unioni civili bisognerà aspettare mesi. Poi forse lo ricorderete, settimana scorsa abbiamo segnalato dalla lettura l'articolo divertente di Francesco Piccolo, che raccontava come di sentirsi un po' assediato dalle tantissime richieste che ci sono in questo momento per convincerci ad assegnare a questa o a quell'associazione il 5 per 1000 nella dichiarazione dei redditi. E qui invece sulla stampa pagine 8 e 9 una vera e propria inchiesta su appunto tutti quelli che chiedono, le associazioni del terzo settore che chiedono legittimamente ovviamente di dar loro il 5 per 1000. La corsa al 5 per 1000 anche notai e motoclub a caccia del tesoro, perché in effetti appunto alla fine questo 5 per 1000 diventa un tesoro che può cambiare le sorti nel caso delle organizzazioni non governative proprio di un anno di lavoro. Dall'Avvenire vi segnalo un approfondimento che non c'è su alcun altro giornale, che riguarda il Venezuela, che è un paese in stato di emergenza. Maduro, che è il presidente, proroga di 2 mesi le misure eccezionali contro la recessione e quindi, scrive il Messaggero, paralizza la piazza. E poi è andato anche in televisione per annunciare altri provvedimenti straordinari per mantenere l'ordine pubblico. Anche in questo caso solo l'Avvenire parla della adunata nazionale annuale degli alpini, che come sapete ogni anno è in una città diversa, quest'anno è a Asti, e quindi l'Avvenire ci racconta con Marianna Natale, che è proprio ad Asti, adunata 2016, alpini irruzione di grande umanità, migliaia di volontari da tutta Italia, e forse c'è anche il nostro Peter Bescapè, che so che è un alpino. L'Unità riprende una notizia che forse avete sentito anche qui nei GR, un altro scoop del New York Times, che parla di questo incontro segreto che c'è stato fra scienziati per valutare la creazione di un genoma umano sintetico. Se venisse realizzato, scrive il New York Times, ripreso dall'Unità, il progetto consentirebbe di far nascere esseri umani in assenza di genitori. Ci fermiamo un attimo però per gli aggiornamenti sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Eravamo nelle pagine interne dei giornali, vi segnalo alcune curiosità, questa mi ha proprio colpita. Abbiamo parlato delle elezioni di Roma, dove si voterà per il sindaco insieme ad altre, molte altre città, il 5 di giugno. Sull'Unità trovo questa rubrica tipo delle lettere, intitolata Giachetti e il decentramento amministrativo di Roma. La risposta a cura di Luigi Cancrini, psichiatra e psicoterapeuta. Uno pensa che sia una cosa che riguarda magari la sanità. No, questo psichiatra e psicoterapeuta risponde a questa persona che gli ha mandato la lettera, che poi è un candidato PD al Consiglio di Roma Capitale, sul decentramento dei municipi. E uno dice, boh, perché questo signore dovrebbe essere un esperto in questa materia? Comunque, insomma, ci dà il suo parere. Speriamo almeno che viva a Roma, che sia almeno in quel senso un parere informato, perché sennò è un botta e risposta surreale. Dal Fatto vi segnalo un'intervista a De Magistris, anche qui un po' surreale secondo me. Il titolo è Renzi non lo insulto più, avrete, qualcuno di voi avrà forse sentito del comizio che di qualche giorno fa, in cui appunto De Magistris, sindaco di Napoli, che si ricandida a sindaco di Napoli per un secondo mandato, ha insultato pesantemente Renzi, quasi minacciandolo con una minaccia volgarissima. Dice: in piazza non mi so trattenere. Sì, istrionico direi, però c'è da chiedersi se forse la maggior parte dei napoletani non meriterebbero un pochino più di serietà, perché non sembra sempre di buttarla in appunto in istrionismo, tanto che alla domanda lei spera di vincere, De Magistris risponde al primo turno, Antonello Caporale gli chiede: però può anche perdere, non ha un lavoro di riserva, mi sono dimesso dalla magistratura e non ho mai pensato a una rete di protezione. E allora Caporale gli dice: sarà a spasso? E lui risponde: aprirò un agriturismo, magari farò l'opinionista, il teatrante o qualcos'altro. E poi un'altra domanda divertente, dice: sono bello, piaccio alle donne, si vede, l'ha detto lei, non va alternudo? Chiede Caporale a De Magistris. E De Magistris risponde: la mia sincerità mi porta a dire esattamente le cose come stanno. Cioè lui pensa di essere bellissimo. Va bene. Passiamo ai supplementi culturali, tanto chi, magari alla domenica c'è un pochino più di tempo per dedicarsi appunto a questi argomenti, e cominciamo come sempre dalla Domenica del Sole 24 Ore, come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa volta parte da una citazione di un libro di Cronin, che era un medico scrittore, Archibald Cronin. La citazione è questa: le nostre ossa si sciolgono e diventano la terra dei campi, ma lo spirito vive nelle altitudini in una condizione di gloriosa luce. Dio è il padre comune di tutta l'umanità. È di San Paolo, chiede l'interlocutore a Prade Chisholm, il protagonista del romanzo Le chiavi del regno, opera appunto del medico scrittore Archibald Cronin, e questo sacerdote risponde: no, non è di San Paolo, è di Confucio. È pur vero che l'apostolo ha un'immagine analoga, quella del nostro corpo simile a una tenda, nostra dimora terrena, destinata a essere dissolta e sostituita da un'abitazione celeste, lo scrive nella lettera ai Corinzi. Però, scrive Ravasi, la visione cristiana dell'oltrevita propone una ricreazione dell'intero nostro essere corporeo e spirituale in coordinate non più spazio-temporali e quindi permanenti e infinite. È quella che è definita come risurrezione. Significativo rimane però il fatto che quasi tutte le religioni e molte concezioni filosofiche, si pensi a Platone, vedono il nostro approdo terminale non nel gorgo oscuro della polvere e del nulla, ma in un ritorno alle mani del Creatore, il Padre comune di tutta l'umanità. Una nuova, eterna e perfetta vita, dunque, oltre la pala del becchino. Poi la rubrica Memorandum del nostro direttore, nostro di Radio 24 del Sole 24 Ore, parte da una lettera che gli ha scritto Marisa Giaroli da Reggio Emilia, dove ripercorre un po' il suo passato, anche di esperienza all'interno della Fuci, e anche ricorda scrive di avere un figlio monaco che ha ulteriormente rafforzato la sua fede. E quindi la lettera e la risposta del direttore napoletano: il silenzio dell'eremo di Camaldoli, Marisa e il valore della vita. Ma l'apertura della domenica, il pezzo di copertina è uno scritto di Sergio Luzzato, il titolo: Primo non prese il fucile, Primo con la P maiuscola perché ci si riferisce a Primo Levi, è un testo tratto dalla postfazione scritta appunto da Sergio Luzzato per la traduzione francese del suo libro Partigia, che adesso esce da Gallimard. La versione integrale, tra l'altro, la trovate sul sito del Sole 24 Ore. Con la consueta onestà intellettuale, Levi confessò l'incapacità di rendere il colpo. Ora, sul tema del coraggio che gli mancò, appare questa lettera inedita. Un bellissimo aggiornamento sulla questione dei neuroni specchio, che sono quelli neuroni specchio non solo, che sono quei particolari neuroni che ci permettono di entrare in empatia con gli altri. Specchio a più dimensioni, nuove scoperte sul meccanismo che rende possibile la comprensione dall'interno delle emozioni altrui, un lungo articolo di Giacomo Rizzolatti. Una recensione di una grande mostra, deve essere bellissima, che c'è in questo momento a Roma, di Igor Mitorai, il grande scultore. Le opere esposte tra le rovine dell'antica città romana vengono esaltate dalla magia del luogo, ci racconta Ada Masoero. La prima pagina della lettura, la copertina della lettura, il supplemento del Corriere della Sera, affidata come sempre a un artista questa settimana, è Paolo Gioli. E poi vi segnalo un bell'articolo a pagine 2-3 di Emanuele Trevi, lo scrittore, che ci parla degli outsider. L'intuizione venne all'inglese Colin Winson nel 1954, che campava a Londra quasi come un barbone, ma immerso nella lettura di testi importanti. Scrisse un libro nel quale si chiedeva come sia possibile continuare a vivere dopo aver concepito con certezza l'irrealtà dell'esistenza. Anche oggi il suo saggio ci parla. Esistono uomini, rari in verità, che vedono ciò che altri non vedono e non attribuiscono valore a ciò che per altri ha invece valore. Un altro approfondimento di un medico, Giuseppe Remuzzi, che però è anche un grande divulgatore, che parla, affronta il tema di come i medici devono dire la verità ai bambini malati. Su questo naturalmente ci sono opinioni diverse. Affrontare il dolore nell'infanzia e nell'adolescenza è drammatico, ma gli ospedali devono essere capaci di trovare le parole per farlo. Poi vi segnalo la copertina della Domenica della Repubblica, tutta dedicata a Andrea Pazienza, che avrebbe compiuto 60 anni il 23 maggio. In realtà è morto giovane per un overdose da eroina. La copertina è un suo disegno e l'articolo di Nicola La Gioia e Michele Smargiassi. Li avrebbe 60 anni se Paz, veniva chiamato così da amici e fan, avesse 60 anni, questo grande illustratore fumettista, li avrebbe compiuti appunto il 23 maggio. Noi lo festeggiamo lo stesso, e poi ci sono due pagine con anche tanti suoi disegni. Un articolo bellissimo che si intitola Classica Pop, tra l'altro con una illustrazione di Mozart, ma con i capelli tipo punk, di Emiliano Ponzi, che ci racconta il caso di Mathieu Mantenu, giovane direttore d'orchestra che dall'iniziativa Jeans Music in poi coltiva il sogno di rendere finalmente accessibili a tutti e a un pubblico giovane in particolare opere liriche e sinfonie, per dare appunto non una seconda giovinezza alla musica classica, che forse non ne ha bisogno, ma proprio di farla avvicinare ai giovani, perché può essere giovane anche la musica classica. Ultima segnalazione dalla Repubblica, il ciclo di interviste sta parlando di Antonio Gnoli, con l'illustrazione di un grandissimo altro illustratore italiano, Riccardo Mannelli. Questa settimana è Giorgio Agamben, che è uno scrittore, ha insegnato anche a Parigi filosofia, si occupa soprattutto di linguaggio e politica. Il titolo dell'intervista: credo nel legame tra filosofia e poesia, ho sempre amato la verità e la parola. E in realtà un'ultimissima segnalazione ve la faccio dalla Stampa, che parla di questi dati del resi noti al Salone del Libro di Torino, che si chiude domani. I figli di Harry Potter salveranno l'editoria, libri per ragazzi trainano il mercato, merito dei millennials, ormai genitori che li definiscono meglio di un tablet. Sarebbe fantastico se fosse veramente così. Ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.